tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Aumenta l'occupazione, scendono gli inattivi. Ecco i dati di oggi sul lavoro. In rialzo la disoccupazione, c'è più gente che cerca un posto. Da Mondina a modella e poi stilista e regina dei salotti, la straordinaria vita di Marta Marzotto è finita, morta ad 85 anni. Il Papa in visita ad Auschwitz e Birkenau. Signore, perdona tanta crudeltà, dice il pontefice. In Gran Bretagna 500 crimini razzisti dopo Brexit. La crisi dei rifiuti a Roma, la denuncia anomalie e la magistratura indaga. Inchiesta su Malagrotta e antimafia in campo. L'emergenza prosegue in Sicilia. Calciomercato sembra fatta per Pogba. Dovrebbe passare dalla Juventus al Manchester per 100 milioni di sterline. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. E questa è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva e torneremo il 5 di settembre, o più o meno, insomma, in quella settimana, il lunedì. Dunque iniziamo come sempre e iniziamo dai dati sull'occupazione. Gli occupati salgono per il quarto mese consecutivo a giugno e segnano più 0,3%, ovvero 71.000 persone in più rispetto a maggio. A crescere nel mese sono soprattutto i lavoratori indipendenti, spiega l'Istat. Risale però anche il tasso di disoccupazione all'11,6%. Il motivo è da ricercare nel calo degli inattivi, sottolinea Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica. Questo effetto sembra paradossale, c'è un aumento di occupazione e un aumento di disoccupazione, ma in realtà la spiegazione è semplice: questi due indicatori salgono entrambi perché le persone sono più attive sul mercato del lavoro, sia perché trovano un lavoro, sia perché lo cercano, e quindi cala l'inattività. Buone notizie per i giovani tra i 15 e i 24 anni: per loro la disoccupazione scende al 36,5%, livello più basso da ottobre 2012. A gioire nei 12 mesi anche gli over 50 e gli under 35, mentre soffre la fascia intermedia. Soddisfatto Matteo Renzi. Fatti non parole, questo è il Jobs Act, il suo commento su Twitter. Resta ancora molto da fare, ma la strada è quella giusta, dice il ministro Poletti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi incontri per parlare di lavoro, ma anche di pensioni, tra governo e sindacati, e questa mattina tra Confindustria e sindacati. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è così una giornata fitta di incontri. Da circa un'ora in corso il confronto tra governo e sindacati sulle pensioni, l'ultimo prima della pausa estiva, con l'obiettivo di tirare le file, avviare un percorso che poi da settembre dovrebbe portare alla definizione dettagliata degli interventi e soprattutto delle risorse da inserire nella legge di bilancio. Presenti i leader di CGIL e CISL e UIL, il ministro Poletti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini. Le misure sul tavolo partono dall'introduzione della flessibilità in uscita, a cominciare dall'anticipo pensionistico, ma le ipotesi su cui si ragiona comprendono anche i lavori usuranti, i lavoratori precoci, la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni diverse. Questa mattina invece, come dicevi anche tu, presso la sede di Confindustria, i tre leader Barbagallo, Camusso e Furlan hanno visto il presidente degli industriali Vincenzo Boccia. Al centro il tema del lavoro e del nuovo modello contrattuale, tema che si interseca con la partita dei rinnovi aperti. Un incontro giudicato positivo dai sindacati, soprattutto per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali e gli strumenti per governare la crisi. Abbiamo trovato un orientamento unitario, hanno detto, che verrà tradotto con una proposta concreta a inizio settembre. Il 1 settembre, infatti, è già stato fissato un nuovo incontro. Obiettivo comune: dare risposta sia ai decreti correttivi del Jobs Act sia alla legge di stabilità. E da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Restiamo sui temi economici per parlare di banche. Oggi è il giorno dei risultati degli stress test che arriveranno alle 22. Parliamo però di Monte dei Paschi, in corso un consiglio di amministrazione. Luca Davide del Sole 24 Ore, buongiorno. Che cosa è chiamato a decidere questo CDA e che cosa ci si attende dagli stress test? Eh sì, buongiorno a tutti. La situazione bisogna dire che è fluida, perché la risposta finale si avrà solamente a mercati chiusi, ma oggi è in corso un CDA che dovrà decidere sull'esito del piano di salvataggio. Sul tavolo del CDA di Siena ci sono due piani, in realtà: quello targato JP Morgan Mediobanca, che è il piano strutturato, che prevede un aumento di capitale da 5 miliardi, mentre è arrivato ieri sera un altro piano targato Corrado Passera, l'ex CEO di Intesa San Paolo e UBS. Un piano appunto arrivato in extremis e che, secondo quanto risulta, però dovrebbe risultare in salita. A questo punto quindi si aprirebbe la soluzione di un aumento di capitale da 5 miliardi totalmente recuperati sul mercato, con un consorzio garantito da 8 banche d'affari. L'intera architettura di questo piano è oggi al vaglio, in contemporanea con Siena, è al vaglio del board della vigilanza BCE, che sta esaminando tutte le carte e che proprio tra qualche ora dovrebbe dare il suo benestare finale. In questa maniera stasera alle 22, quando si alzerà il velo sui risultati degli stress test, MPS dovrebbe sostanzialmente annunciare un piano di salvataggio attraverso il quale garantirà lo smaltimento di circa 10 miliardi di sofferenze e quindi mettere definitivamente in sicurezza la banca, così che lunedì si aprano le contrattazioni e il mercato possa tirare un sospiro di sollievo. Allora io ti ringrazio, grazie a Luca Davi per questo aggiornamento. Intanto una giornata particolarmente positiva quella oggi sui mercati, con il FTSE MIB che guadagna il 2,09%, trainati i mercati soprattutto dalle banche: Popolare Emilia Romagna più 7,3, Monte dei Paschi più 6,9, Unicredit più 6,2 e da Generali che guadagna l'8,10. Oggi sono stati diffusi i dati appunto che riguardano Generali. Torneremo più avanti come sempre alle 13:30 sui mercati. Intanto ci occupiamo di Marta Marzotto, che è morta. 81 anni, ma prima o poi schiatto. Meglio poi. Schiatto, capito? Ogni giorno sono presa dalla smania. Avrei tante di quelle cose ancora da dire, che voglio farlo più in fretta possibile. Allora, Marta Cagnola, se ne va un personaggio, comunque la si pensi, straordinario. Sì, infatti in questa frase la sua risata, prima o poi schiatto, lei aveva questo entusiasmo nella vita e non si può non ricordarla con un po' di sorriso. L'ho annunciato questa mattina Beatrice Borromeo, la nipote, con un messaggio su Twitter intorno alle 9. Ciao nonita mia, ha pubblicato una foto di Marta Marzotto, una foto in bianco e nero con Marta Marzotto sorridente con un cagnolino in grembo. Una vita intensa quella di Marta Marzotto, amori, tradimenti, usava dire: nella mia infedeltà ero fedelissima, sono stata un'ottima moglie. Effettivamente lei doveva molto al marito, il conte Umberto Marzotto. Lei era nata in una famiglia molto povera, era stata mondina, poi era diventata prima una sarta e poi una stilista, una modella nel mondo della moda. Aveva conosciuto Umberto Marzotto. 5 figli, un matrimonio, ma anche 2 grandi amori, Renato Guttuso e Lucio Magri. Mai mettere in pericolo le famiglie, però, diceva, e quindi questo era il patto con soprattutto con Renato Guttuso, che aveva così fatto sì che la vita di Marta Marzotto avesse un suo certo equilibrio, uno strano e curioso equilibrio. Grande fame di vita, grande entusiasmo, lo diceva sempre. Io guardo sempre avanti, con un occhio dietro che non si sa mai, però la curiosità è di non cedere mai, di non darmi retta. Se c'è una cosa che mi interessa, che non conosco, io mi butto. E con questa voglia di vivere, questa fame di vita, l'ha ricordata anche il figlio Matteo Marzotto: un ricordo fino all'ultimo di grande ottimismo, di fame della vita, di voracità verso la vita, ha voluto sapere giorno per giorno le avventure di ognuno di noi figli e dei nipoti, ci ha sempre spronato ad andare avanti, faceva sempre il tifo per nuove iniziative, per mettere a frutto i propri talenti. Insomma, un sorriso per ricordare Marta Marzotto. E grazie Marta Cagnola per questo racconto anche della vita di Marta Marzotto. Così abbiamo spezzato, per così dire, questa prima parte della trasmissione e adesso torniamo ad altri argomenti, a partire dalla visita del Papa in Polonia. Oggi ha toccato Auschwitz e Birkenau. Ci colleghiamo con Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, che visita è stata e che cosa ha detto il Papa? Sì, il Papa, allora, innanzitutto la visita è durata 2 ore circa e non è, diciamo così, non ha detto nulla il Papa ufficialmente, perché era noto che lui non volesse tenere discorsi, in quanto dice il silenzio di fronte alla memoria e al dolore. Ha solo lasciato una testimonianza scritta davanti alla cella di padre Kolbe, in cui sostanzialmente ha detto: padre, perdona per i crimini dell'umanità, per la vita del tuo popolo. per le tue crudeltà ti chiediamo perdono. Quindi diciamo così solo queste parole e ha incontrato i sopravvissuti, 10, e un gruppo di giusti fra le nazioni, cioè persone che si sono distinte nel salvezza degli ebrei, in questo caso i loro successori. E quindi diciamo una visita che ha toccato i due campi principali, quindi Auschwitz, dove appunto è stato nel blocco 11, che era quello celebre, dove venivano poi fucilate spesso le persone appena arrivate, e poi a Birkenau, che è il grande campo di sterminio, dove hanno perso la vita 1.100.000 persone, di cui la gran parte ebrei. Grazie a Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore, per questo aggiornamento dalla Polonia. Intanto in Gran Bretagna si fanno i conti sull'ondata di razzismo post-Brexit. Go on, the lawyer. You make me sick. Tornatene a casa tua, questo è il mio paese, mi fai vomitare. Vattene a casa, al posto a cui appartieni, scimmia. È solo uno dei 500 episodi di razzismo registrati nel Regno Unito nelle ultime 5 settimane. Li ha contati il quotidiano britannico The Independent. Secondo molti osservatori, da quando la Gran Bretagna ha scelto di lasciare l'Unione Europea con il referendum sulla Brexit, gli episodi si sono moltiplicati. Svastiche, abusi verbali, scritte sui muri contro i fottuti polacchi. Si va dall'uomo che ha gettato in faccia a una bambina di 4 anni di origine asiatica degli escrementi a Worcester il 19 di luglio, ai continui insulti e aggressioni a cui vengono sottoposti i cittadini britannici di origine straniera sui mezzi di trasporto, dalla metropolitana di Londra agli autobus di provincia. E sotto accusa è finito il governo conservatore di Theresa May. E proprio oggi Theresa May, in visita in Slovacchia, ha detto che in ogni futuro accordo di cooperazione fra Regno Unito e Unione Europea dovrà essere preso in considerazione il chiaro messaggio sul controllo all'immigrazione arrivato dal referendum sulla Brexit. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle cronache dal terrorismo, le cronache del dopo attentati in Francia. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, iniziamo subito dall'ultimo arresto. Un richiedente asilo siriano è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di padre Jacques, è stato arrestato ieri in un centro di accoglienza del Dipartimento dell'Allier. Quindi a questo punto sono 3 i fermati: un familiare di uno degli aggressori, Abdel Malik Petitjean, e un 16enne vicino all'altro assassino, Adel Kermish. Ed è proprio parlando di Kermish, che da marzo era uscito dal carcere in libertà vigilata dopo aver tentato di raggiungere la Siria e unirsi all'ISIS, che il premier francese Valls ha ammesso che la magistratura antiterrorismo francese ha fallito. In una intervista al quotidiano Le Monde ha detto anche che questo dovrebbe condurre i magistrati a un approccio diverso, caso per caso, tenuto conto della grande capacità di dissimulazione degli jihadisti. In ogni caso, ha detto Valls, anche nella lotta al terrorismo c'è una linea invalicabile, che è lo Stato di diritto. Noi non creeremo delle Guantanamo alla francese. Per il momento direi, Simone, è tutto. E grazie dunque a Laura Bettini. Veniamo all'Italia, alla situazione dei rifiuti a Roma. Non si ferma lo scontro tra Campidoglio e Ama e adesso indaga anche la procura sulle modalità di smaltimento dei rifiuti nella capitale. Daniele Fortini, presidente dell'Ama, la partecipata del Campidoglio da 8.000 dipendenti che gestisce l'immondizia nella capitale, è stato ascoltato per oltre 5 ore dal PM Galanti. Tra i tanti temi trattati c'è il tritovagliatore di Roccacencia, di proprietà di Maglio Cerroni, storico patron della discarica di Malagrotta. Ma non solo, Fortini afferma di aver presentato ben 14 esposti per denunciare la mala gestione dei rifiuti, tra i quali spicca l'assenza di gare d'appalto. Il PM ha già iscritto i primi nomi sul registro degli indagati. Si tratta di alcuni funzionari della municipalizzata e alcuni dipendenti della ditta Cerroni, e ha ordinato il sequestro di alcuni documenti sui 2 impianti di Malagrotta. Ma la sindaca Raggi accusa invece proprio Fortini per la mala gestione di Ama. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di rifiuti torneremo a parlare più avanti, con un focus sulla situazione in Sicilia, in particolare sulle isole. Andiamo a chiudere questa prima parte con il calciomercato. Accennavamo già ieri alla vicenda Pogba, che sta tenendo banco. Carlo Genta, sembra fatta, eh? Sembra fatta, è fatta, manca l'ufficialità, perché quella non c'è ancora, però si conosce ormai tutto del trasferimento di Pogba dalla Juventus al Manchester United. Si conoscono le cifre, si parla enfaticamente di 100 milioni di sterline, 110 mila euro più la commissione. Questo era un punto di discussione, la commissione multimilionaria, 20 milioni di euro, che dovranno essere pagati al celeberrimo manager di Pogba e di molti altri giocatori, Mino Raiola. Pagherà dunque lo United. La Juventus incasserà questo trasferimento, che è il più caro della storia del calcio, e andrà a finanziare appunto l'acquisto di Higuain, che ieri ha parlato ormai da juventino, ha versato un po' di veleno su De Laurentiis, di questo poi parleremo in tutti i convocati. E dunque stiamo aspettando soltanto l'ufficializzazione, si stanno stilando contratti, immagino, da moltissime pagine, anche perché Pogba andrà a guadagnare allo United una cifra pazzesca, 13 milioni di euro netti a stagione più 7 per la cessione dei diritti d'immagine. Chiaro, uno stipendio che alla Juventus non avrebbe potuto prendere nemmeno con tutta la buona volontà del mondo da parte della società bianconera. Dunque tutti felici, io credo, per questi colpi di mercato, che sono i più eclatanti, ma non saranno gli unici, Simone. Sicuramente no. Intanto grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. In realtà toccheremo un tema che è più nazionale. Abbiamo affrontato molto in queste settimane il tema della gestione dei migranti sui territori, su come stanno andando le cose, i luoghi di maggiore emergenza, i comuni nei quali vengono ospitate tantissime persone, quelli che non ne vogliono ospitare nessuno. La gestione dei minori non accompagnati. Vi avevamo promesso che dopo tutto questo giro per l'Italia avremmo fatto un punto con qualcuno del Ministero dell'Interno, lo faremo e chiederemo chiarimenti al sottosegretario Manzione. E poi una storia che abbiamo visto sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo ci dedica una pagina, un masso in mezzo ad una statale che per una serie di questioni burocratiche non viene rimosso da un anno. Ne parleremo col presidente della provincia di Salerno, perché un'altra di quelle tipiche vicende italiane, traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati sul lavoro. Qualche ascoltatore ci chiede: non ho capito, ma la disoccupazione è scesa o è aumentata? La disoccupazione è aumentata, ma come abbiamo raccontato, questo dipende anche dal fatto che c'è più gente che cerca lavoro e l'Istat misura anche questo. Nel frattempo cresce anche l'occupazione, scendono gli inattivi. Abbiamo parlato anche del Papa in visita ad Auschwitz, dell'aumento dei crimini razzisti in Gran Bretagna dopo la Brexit, abbiamo parlato della morte di Marta Marzotto, abbiamo parlato della crisi dei rifiuti a Roma, abbiamo parlato di calcio mercato. Adesso, come sempre all'inizio di questa nostra prima parte, di questo nostro giro per l'Italia, affrontiamo il tema della violenza sulle donne. Radio 24 ha compiuto un viaggio in queste due settimane, trovate tutte le puntate sul sito www.radio24.it, un tentativo di sensibilizzazione su questi temi e di chiarimenti e anche di spiegazioni. Noi, come sapete, l'affrontiamo dal nostro particolare punto di vista, ossia raccontando quello che succede in Italia, quello che troviamo anche sulle pagine dei quotidiani locali che non arriva sulle pagine dei quotidiani nazionali, perché la morte di una donna uccisa da un compagno, da un ex compagno, da un marito, da un ex marito, è solo la punta di un iceberg di violenze quotidiane che si verificano. Di molte non ne veniamo a sapere nulla, di molte invece veniamo a sapere, perché finiscono con un arresto. Altre storie durano per decenni prima che le donne si decidano a denunciare. Ecco le storie di oggi. Radio 24, dalla parte delle donne. A Porto Ceresio, provincia di Varese, accusava la moglie di un tradimento, l'ha insultata, l'ha picchiata e poi ha preso anche a schiaffi il figlio di 17 anni durante il tentativo del ragazzo di difendere la madre. Il 50enne pregiudicato è stato arrestato. A Platania, speriamo di aver detto giusto il nome, provincia di Catanzaro, iniziamo da un 12enne, perché è stato lui a chiamare i carabinieri dopo aver visto la madre picchiata dal marito e dal padre, dopo aver subito un pestaggio. Il padre lo ha preso a calci e pugni e poi lo ha immobilizzato nel letto e gli è salito con i piedi sulla schiena. È stato infine arrestato. A Campobasso, in Molise, le vittime in questo caso erano una donna e sua figlia. Il nome dell'autore delle violenze è Ennio Picone, 45 anni. Qualche ascoltatore ogni tanto ci dice: perché non fate tutti i nomi? Perché non sempre ce li abbiamo. Molto semplicemente, non abbiamo nessun problema e nessun timore a fare i nomi di chi si macchia di violenza nei confronti delle donne. Quest'uomo era in affidamento in prova ai servizi sociali proprio per maltrattamenti in famiglia, ma spesso era fuori casa durante i controlli della polizia, in casa continuava a picchiarle. Ora sconterà in carcere il resto della pena, ma si tratta di 5 mesi appena. A Bitonto, in provincia di Bari, un uomo è stato finalmente arrestato, ma ci sono voluti 2 anni. Nel 2014 aveva già picchiato la compagna e lei l'aveva denunciato. Poi, durante la festa patronale, aveva provato a strapparle la bambina e a portarla su una giostra. Lei si era opposta. Il risultato, mani al collo e schiaffi. Era anche entrato nella casa del suocero di nascosto e lo aveva picchiato. Oggi, finalmente, è in manette, ma chissà quanto durerà la sua detenzione. Radio 24, dalla parte delle donne. E un altro tema del quale ci siamo occupati molto in queste settimane è il tema dell'accoglienza dei migranti. Abbiamo raccolto, come ben sapete, dal territorio una serie di questioni, di proteste, di perplessità da parte di chi gestisce il territorio, tanto i prefetti quanto i sindaci. Un'oggettiva difficoltà ad organizzare le cose, a mettere insieme i pezzi. Abbiamo deciso di chiudere questa stagione di Effetto Giorno dopo aver fatto questo viaggio andando a parlare con il Ministero dell'Interno e con Domenico Manzione, sottosegretario agli interni, che si occupa esattamente di queste cose. Sottosegretario, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, le voglio far sentire, prima di iniziare la chiacchierata con lei, un po' di voci che abbiamo raccolto. Sono voci dal territorio, come si diceva, da Cona, provincia di Venezia, alle spalle di Venezia, ed è la prima voce che ascolto. Ma poi c'è anche Como, c'è naturalmente Milano, c'è Pozzallo, il sindaco ce l'abbiamo avuto l'altro ieri ed è discretamente innervosito, altre 500 persone sono arrivate anche oggi. Insomma, molte città d'Italia che raccontano questo. 700 persone sono accatastate in una ex base militare dell'esercito in una frazione di 190 abitanti. Alla sera c'è sempre un arrivo di 80-90 persone perché vengono respinte dalla Svizzera oppure perché stanno cercando di passare il confine. Aspettare 6 mesi per avere un colloquio, aspettare 6 mesi per riuscire ad avere il passaporto, diventa difficile poi da gestire. Una vicenda che colpisce tutti, non solo alcuni comuni, ed è giusto che tutte le amministrazioni si facciano carico dell'accoglienza e dell'inserimento di questi migranti. Ci sono delle tende, delle igloo dove possono dormire e riposare, a volte queste non bastano e quindi sono appoggiati su dei cartoni o dei materassi di fortuna. Sembra quasi che appunto l'hub provinciale di Bagnoli sia il posto in cui dove scaricare i problemi che ancora non si è in grado di risolvere. Sì, sono arrabbiato con il governo perché sento sempre più lontano questo governo dalla mia città. Allora, sottosegretario Manzione, mi sembra evidente che dal territorio emergano, lo abbiamo raccontato spesso, lo leggerete anche voi sui giornali perché avete una signora rassegna stampa su tutto questo, emerga una certa sofferenza e anche l'impressione che, glielo dico molto brutalmente, che il Ministero dell'Interno non stia gestendo al meglio questa situazione. Guardi, sul fatto che i territori siano in sofferenza, questo è assolutamente fuori discussione. Tutto questo dipende dal fatto, o in parte dipende anche dal fatto, che la distribuzione territoriale fino a questo momento ha visto la territorialità sicuramente molto partecipe, ma in misura abbastanza contenuta. Le do 2 dati tanto per avere un'idea. Rispetto agli 8.000 comuni che sono presenti sul territorio del nostro paese, quelli che fanno accoglienza nel servizio SPRAR sono 800. Non va molto meglio con le parrocchie, nemmeno dopo gli inviti di Papa Francesco, perché su circa 20.000-22.000 parrocchie sono circa 2.000 quelle che fanno accoglienza. Quindi abbiamo in entrambi i casi, mi scusi, sia per i comuni sia per le parrocchie, circa un 10% di strutture che accolgono. Esattamente così. Mm. Questo è evidente che determina delle tensioni sul territorio perché normalmente si chiede di accogliere a chi accoglienza la fa già. È evidente che è una situazione che non può tenere perché se in una provincia, per dire, su 50 comuni sono solamente 5 quelli che fanno accoglienza e gli altri rimangono indenni, evidentemente il problema c'è. E infatti è per questo che, le dicevo, stiamo studiando con ANCI un sistema di distribuzione molto più capillare sul territorio, in maniera che la distribuzione sia equa anche tra le singole territorialità, immaginando una serie di incentivi, il primo dei quali per esempio potrebbe essere che chi fa SPRAR non riceve altre presenze. Cioè chi cosa vuol dire? Che chi fa attivamente chi, accoglienza chi fa già, in sostanza? Esatto, chi ha già un progetto di accoglienza per i rifugiati e i richiedenti asilo rimane indenne da eventuali centri straordinari, che sono invece quelli che fanno capo ai prefetti e che sì. I prefetti sono costretti a istituire nel momento in cui chiedono alla territorialità la disponibilità dei posti, e dalla territorialità arriva un diniego, anzi talvolta, le dico la verità, arrivano anche parecchie complicazioni. Faccio un esempio banale, in non pochi comuni accade che il prefetto individui una struttura oppure individui un terreno dove poter fare, dove poter mettere delle strutture, molto spesso riceve la visita prima della polizia municipale, poi dell'ASL e poi di altri organismi di controllo, che magari le contestano, sì. Che le devo dire? Che ci sono 10 posti letto e solamente un bagno, ecco, tanto per intenderci, sì. Questo è sì. Il succo del quindi c'è un problema, e mi è sembrato di capire anche questo, in effetti, sottosegretario, che c'è un problema di rapporto tra le territorialità e i prefetti. In entrambe le direzioni, a volte, le devo dire, perché non è che solamente i comuni osteggiano i prefetti nel momento nel quale ci sono casi di questo tipo, ma a volte ci sono anche i prefetti che non parlano con le territorialità, e questo è un problema. Non c'è dubbio, infatti le dicevo che le mosse, diciamo così, che stiamo cercando di fare per ovviare a questo tipo di problematiche sono le seguenti. Allora, intanto, in conferenza Stato-Regione il 3 di agosto arriverà un decreto del Ministro dell'Interno che semplificherà parecchio l'accesso al sistema SPRAR, che è quello di cui parlavamo prima, cioè il sistema di protezione per i rifugiati, incentivando i comuni a fare delle domande che potranno essere inserite in una graduatoria che avrà un valore triennale, in maniera che non ci sia questo stillicidio di gare continue anche per chi ha intenzione di fare accoglienza. Cioè si fa una gara, questa gara vale per 3 anni, molto brutalmente. Con possibilità di proroga di 3 anni. In sostanza è il comune che offre un servizio e quindi chiede l'accesso al fondo che è depositato presso il Ministero dell'Interno, secondo una procedura che sia, come dire, quantomeno sintonica rispetto alla tragedia degli sbarchi che abbiamo tutti i giorni. Che tempi prevede per l'approvazione di tutto questo e per gli accordi su tutto questo, allora, sottosegretario? L'accordo dovrebbe andare il 3 di agosto, come le dicevo. La prima graduatoria dovremmo essere in grado di farli entro la fine dell'anno, quindi i tempi sono abbastanza relativamente stretti, sono sempre tempi italiani. Esatto, dopodiché parleremo ovviamente con tutti i prefetti proprio per dare queste indicazioni di cui la territorialità patisce le conseguenze, quindi dove si fa il progetto SPRAR evidentemente che non ci siano altre presenze. Ok, l'ultimo punto che voglio sollevare con lei, e l'altro tema che hanno sollevato molti comuni, è il problema delle regole che riguardano i minori non accompagnati, perché come sa, là c'è un tema di distribuzione, appunto, perché, come abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori, spesso l'accoglienza per quanto riguarda i profughi e i richiedenti asilo c'è una sorta, chiamiamola così, di distribuzione automatica che avviene tramite la prefettura, tramite le strutture del Ministero dell'Interno, mentre invece l'accoglienza dei minori non accompagnati deve essere fatta sostanzialmente dal comune, e ci sono comuni che da questo punto di vista denunciano un forte problema, una forte tensione anche per quanto riguarda tanto il lavoro dei servizi sociali quanto le spese che debbono sostenere. Da quel punto di vista, che cosa si può fare? Guardi, secondo me i comuni hanno perfettamente ragione, come ricorderanno però i comuni stessi, questa era materia che era devoluta al Ministero del Lavoro, non al Ministero dell'Interno. C'era anzi una doppia competenza a seconda che il minore chiedesse l'asilo oppure non chiedesse l'asilo. Nel momento in cui chiedeva l'asilo rientrava nelle attribuzioni del Ministero dell'Interno, nell'altro caso invece se ne doveva occupare il Ministero del Lavoro. Noi, per venire incontro ai comuni, che sono i primi che hanno problemi con i minori, perché in base alla 328, che è la legge che si occupa di tutte le problematiche sociali dei soggetti deboli e che fa carico proprio ai singoli comuni di occuparsi dei minori non accompagnati, abbiamo spostato il fondo al Ministero dell'Interno e creeremo, è un emendamento che è stato appena approvato e dovrebbe passare nel decreto legge enti locali, creeremo dei centri di carattere regionale in maniera che i comuni non debbano patire questo tipo di assillo con riferimento ai minori che sbarcano sul loro territorio, quindi non dovranno prenderli in carico direttamente loro, perché capisco che anche da un punto di vista finanziario potrebbe essere un grave problema. Certo. Quello che però mi farebbe piacere è che anche la territorialità comprendesse che in fondo stiamo tutti dalla stessa parte, quindi l'atteggiamento antagonista nei confronti del Ministero secondo me è poco pagante. Sollevare il problema rispetto al quale invece ci può essere una soluzione, come per esempio quella che stiamo cercando di trovare in tema di minori non accompagnati, credo che sia la strada più giusta. Allora io la ringrazio, grazie a Domenico Manzione, sottosegretario agli interni. Noi oggi, come si diceva, chiudiamo la trasmissione per questa stagione, per così dire, e ritorniamo a settembre. Continueremo a seguire questa vicenda perché temiamo, e anche da quel che vediamo, che la cosa non si esaurirà qua, e vedremo come andranno le cose anche appunto dal lato della futura organizzazione dell'accoglienza di profughi e migranti. Resteremo su questi temi e resteremo sui territori. Grazie intanto a Domenico Manzione, sottosegretario agli interni. Adesso una pausa, ci risentiamo per i mercati e poi dopo una storia che arriva da Chieti, dove una persona in carcere da 45 giorni perché è stato trovato in possesso di piante di cannabis. E però che cosa succede? Che questa persona ha una malattia che provoca fortissimi dolori, e i farmaci a base di cannabinoidi non gli vengono distribuiti o non gli vengono concessi, ha deciso sostanzialmente di fare da solo. E adesso appunto sono 45 giorni che è in carcere, che è stato arrestato per aver coltivato alcune piante di canapa, una storia della quale che è stata portata allo scoperto dai radicali, ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: aumenta l'occupazione, scendono gli inattivi, sono i dati arrivati oggi sul mercato del lavoro, c'è un lieve rialzo per la disoccupazione, scende invece quella giovanile. Il Papa in visita ad Auschwitz e Birkenau: Signore, perdona tanta crudeltà, scrive il pontefice. La Mondina, la modella e poi stilista, regina dei salotti, la straordinaria vita di Marta Marzotto è finita ad 85 anni. La crisi dei rifiuti a Roma, l'AMA denuncia anomalie, la magistratura indaga, inchiesta su Malagrotta, antimafia in campo, l'emergenza prosegue in Sicilia. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Continuiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Chieti. Fabrizio Pellegrini, 47 anni, è affetto da fibromialgia, una malattia che gli provoca dolori terribili. E da 50 giorni è in carcere perché coltivava delle piante di marijuana, ma le coltivava non per questione ricreativa, ma semplicemente perché lo aiutavano a sostenere questi dolori terribili. La cannabis di Stato, i farmaci a base di cannabinoidi evidentemente in questo caso non sono stati disponibili o non servivano abbastanza. È rinchiuso nel carcere di Chieti e abbiamo in linea con noi il suo avvocato, Vincenzo Di Nanna. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ci spiega un po' meglio la situazione. I farmaci per lui non sono disponibili, come funziona? L'ASL di Chieti dice che va bene, siamo disponibili ad importare la cannabis dall'Olanda, ma le spese se ne doveva far carico il paziente. Fabrizio Pellegrini a quel punto scrive: ma sono indigente, non ho possibilità di anticipare questa spesa rilevante, perché non aveva reddito e avrebbe dovuto spendere più di 1000 euro al mese, ripeto, anticipandole, lui indigente, anticipando i soldi all'ASL. A quel punto, direi quasi per uno stato di necessità, è costretto, perché l'unica terapia efficace, così come certificano i medici da anni, è la cannabis, è costretto a coltivarla e sceglie di coltivarla piuttosto che rivolgersi al mercato degli spacciatori. Piuttosto che finanziare la criminalità, decide di coltivarla. Mi ascolti avvocato, adesso arriviamo a questo. Non è possibile un'altra terapia, ossia, tanto per fare un esempio, non esistono dei farmaci a base di cannabinoidi che lui può utilizzare per sedare questi dolori? Allora, questi farmaci possono fare ingresso nel territorio nazionale solo su autorizzazione del Ministero. L'autorizzazione c'era per importarlo dall'Olanda. Allora, altri farmaci a base di oppiacei, lui ha una intolleranza certificata. e non producono effetto terapeutico. Questo farmaco che produce a base di cannabis, che veniva importato dall'Olanda, a un certo punto ha un costo tale che deve essere anticipato dal paziente. Quindi l'articolo 32 la sostanza è questo, la sostanza è questa, che lui inizia a coltivare cannabis a scopo terapeutico personale e viene messo in carcere. E viene criminalizzato. Mentre se avesse acquistato la sostanza stupefacente dagli spacciatori non avrebbe commesso reato. Da qui, anche nel processo che ci sarà chiedi, andremo a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 del testo unico stupefacenti, la parte in cui non distingue, o meglio, mette sullo stesso piano spacciatore e consumatore. Consumatore oltretutto per un uso, ripeto, terapeutico, certificato da oltre 10 anni. La situazione del suo assistito, da quel che ho capito sono in 7 in una cella da 3. In una stanza, lui in questo momento, visto che la cannabis in carcere non può entrare, però entrano i derivati dell'oppio come il metadone, come la morfina, perché poi alcuni medicinali che sono molto dannosi per l'organismo possono essere somministrati in carcere, vedasi il metadone per i tossicodipendenti. La cannabis, che non ha mai ucciso nessuno, diciamolo pure, e che per la quale si tratta. Quindi, allora, in questa situazione, in una cella da tre, lui non ha cure e continua a subire questi dolori lancinanti che sono la caratteristica della sua. Che sono sono insopportabili e in questo momento è privo di cure, tranne lo yoga che riesce a fare con difficoltà perché lo spazio della cella è ridottissimo. Pratica lo yoga sul suo letto a castello, sono 7 letti in una stanza che potrebbe ospitare al massimo 3 persone. Anche la carcerazione è contra legge. Allora, oltre ad essere incompatibile chiaramente la sua condizione col regime penitenziario. Allora, avvocato, io la ringrazio, grazie a Vincenzo Di Nanna per averci aiutato a raccontare questa storia che abbiamo voluto mettere in evidenza, una storia che va avanti da 50 giorni, speriamo appunto che le cose da questo punto di vista migliorano. Prima di chiudere, abbiamo un paio di minuti, vogliamo mettere l'accento su quello che sta succedendo in Sicilia dal punto di vista dei rifiuti e in particolare sulle isole. Marco Giorgianni è il sindaco di Lipari, buongiorno sindaco. Buongiorno. Come siete messi? Ma devo dire onestamente che negli ultimi giorni, dopo qualche giorno con una fortissima criticità, stiamo ritornando in una situazione di normalità. Questo non significa che non ci sia ancora qualche piccolo evento o qualche disservizio, però almeno sul territorio del mio comune, che sono 6 delle 7 isole Eolie, la situazione si può definire di stabilità. Tutto era avvenuto per dei problemi con le discariche, ma l'ultimo provvedimento regionale che ci autorizza a portare effettivamente i quantitativi che avevamo prodotto, cosa che non era avvenuta precedentemente, l'ultimo provvedimento del Presidente della Regione ci ha raddoppiato questi quantitativi, quindi rendendoli adeguati a quello che effettivamente produciamo, ci sta consentendo di tornare a una situazione di normalità. Di normalità. Mi sembra di capire però, sindaco, che siamo sempre un po' là, sul filo, no? Per cui appena arriva un evento semi-eccezionale, o magari un particolare afflusso di turisti o cose di questo genere, si rischia di scoppiare. Diciamo che il problema della discarica, ma chiaramente stiamo parlando di un intervento superiore del livello comunale, e c'è ed è necessario un intervento di programmazione, un intervento infrastrutturale che certamente non può essere quello attuale, per cui noi siamo entrati, così per fare anche la storia di quello che è avvenuto, siamo entrati in una fase di criticità perché non riuscivamo a conferire in discarica il quantitativo che producevamo. Ricordo che voglio dire che queste sono 6 isole, per cui a differenza 7 isole come arcipelago, io sono anche il riferimento dell'ufficio e si occupa anche dell'altra isola di Salina, e creava questo problema perché non potendo conferire in discarica restavano i rifiuti sulla strada, mettendoci veramente in difficoltà. Noi abbiamo fatto i salti mortali perché questo avvenisse il meno possibile, tanto è vero che credo che abbiamo avuto una criticità soltanto un giorno e mezzo. Perché a queste difficoltà si aggiunge che essendo un arcipelago noi il trasferimento dei rifiuti lo dobbiamo fare a mezzo nave, quindi anche le file prodotte nell'unica discarica disponibile in zona, che tra l'altro dal nostro territorio è molto lontana, perché è provincia di Catania, quindi al di là dei costi, le file che si creavano facevano sì che i mezzi non riuscissero a tornare in tempo, perché al di là del tragitto su terra, come ripeto, noi siamo isole, quindi si aggiungeva l'ulteriore problema. Questo ha comportato sicuramente un problema. Certamente l'intervento che ci ha autorizzato a ripristinare la normalità. Sì, no, siamo veramente in chiusura. Sì, prego. Ma è una normalità, insomma, sul quale ci vuole un intervento infrastrutturale un po' più serio. Allora io la ringrazio sindaco, guardi, veramente dobbiamo chiudere, siamo già in ritardo. Grazie a Marco Giorgianni, sindaco di Lipari Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.